Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro, la seconda puntata del 2009, e quindi siamo ancora in tempo per dire anno nuovo, vita nuova e presentarvi qualche nuovo prodotto sul mercato, ovviamente di quelli che fanno bene all'ambiente. Non vuole essere questo un catalogo esaustivo, anzi, per fortuna di queste cose se ne inventano e se ne producono sempre di più, ma vuole essere così un'occasione per riflettere su alcuni nuovi prodotti e alcune buone azioni che possiamo fare nei confronti dell'ambiente, ma anche nei nostri stessi confronti. La prima novità: si sa che noi italiani siamo grandi consumatori di acqua in bottiglia, bottiglia soprattutto di plastica, e si sa anche che è difficile fare un calcolo dell'impatto ambientale che questa abitudine comporta, perché bisogna considerare il consumo di petrolio per fabbricare le bottiglie, i camion per trasportarle e le relative emissioni atmosferiche, e infine anche l'inquinamento provocato dagli imballaggi plastici smaltiti in discarica e non attraverso la raccolta differenziata. Dicevamo, è difficile fare un calcolo completo dell'inquinamento derivante dall'uso delle bottiglie di plastica. Sicuramente un taglio lo si può dare con un nuovo tipo di bottiglia che si chiama biobottiglia e in plastica naturale, che viene messa in commercio ormai da circa un mese da Sant'Anna, che è un marchio di fonti di vinadio. Di questa bioplastica ci parla Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato appunto di Fonti di Vinadio. È fatta di plastica vegetale, cioè fatta solo da vegetali, non ha più una goccia di petrolio, per cui ha la caratteristica che ha la qualità, diciamo, simile al vetro, ma la maneggevolezza della plastica, per cui è una rivoluzione nel campo del packaging, soprattutto perché con l'acqua dentro non ha problemi di biodegradazione, invece una volta bevuta, buttata in compostaggio di tipo industriale, in 59 giorni scompare la bottiglia. Diciamo, noi ci teniamo 80 giorni, però in 59 giorni abbiamo visto che tutte le nostre analisi, la bottiglia scompare. Senta, di sostanze vegetali di che tipo, per capire? Sì, all'inizio era fatta dal mais, poi con l'aumento dei costi del mais, oggi come oggi si può prendere da qualsiasi tipo di biomassa vegetale, per cui dagli scarti vegetali che vengono buttati, diciamo, in discarica, e da questo riviene utilizzato lo zucchero per fare dell'acido polilattico, il PLA. Dove viene prodotta? In questa fase è prodotta in America, però una volta partito questo tipo di packaging, l'azienda americana è pronta a investire in Europa, per cui fare delle centrali in Italia di sviluppo di questo nuovo materiale, che non ha la caratteristica di non avere più una goccia di petrolio, per cui non avere la goccia di petrolio è molto importante dalla qualità dell'acqua, perché non rilascia più acetaldeide, per cui la qualità dell'acqua, non c'è più la paura dell'esposizione al sole, e per cui dal punto di vista del consumatore è una qualità completamente diversa. Al momento che non sono prodotte in Italia, queste bottiglie sono per voi costose come le altre, molto più costose? Sono prodotti in Italia, noi compriamo la materia prima, cioè il granulare della plastica, e poi da questo granulare facciamo delle preforme e le soffiamo noi all'interno dello stabilimento. Vengono prodotte le bottiglie fisicamente, vengono prodotte a Vinadio nel nostro stabilimento. E il materiale, la base del materiale, oggi come oggi, è un po' più costoso del costo del petrolio, perché non ci sono i numeri, ma sicuramente se il consumatore ci dà la possibilità, diciamo, di avere successo con questa bottiglia, il costo in previsione potrebbe essere anche inferiore al costo del PET stesso, nel costo del petrolio. Pensate a delle variazioni di prezzo sull'acqua per così far fronte alle spese maggiori che avete sulla materia prima? Allora, il costo in questo momento per noi è molto elevato, cercheremo di ridurre al minimo la differenza rispetto alla bottiglia di plastica, infatti sto anche parlando con gli americani per cercare di fare un ulteriore sforzo per cercare di livellare più possibile il costo della bottiglia, diciamo, di plastica a questo nuovo tipo di materiale, che è molto simile al vetro. Io più che paragonarlo alla plastica lo farei una comparazione al vetro, perché la qualità con cui si conserva l'acqua minerale è molto simile a quella del vetro. Per curiosità, lei ha detto adesso lo paragono di più al vetro, ma al tatto com'è? Al tatto è un rumore, sembra molto vetroso, per cui non si comporta come la plastica, fa più rumore, è un po' più, diciamo, fragile rispetto della plastica, è una via di mezzo tra il vetro e la plastica. La seconda novità di cui parliamo oggi, passiamo dall'acqua all'aria, quella delle nostre città di aria è spesso disastrosa e quella delle nostre case è uguale se non peggio. Le filtrolampade promettono di ripulirla, sono purificatori in pratica, ma sono purificatori di design che in più fanno luce d'atmosfera in particolare. Così ci dice l'inventore e produttore Andrea Campi, che è titolare della Filter Design, un'azienda che in origine nasce per la produzione di filtri per auto e che poi dopo si è evoluta anche in questo settore. Siamo un'azienda che produce i cosiddetti filtri antipolline piuttosto che aria abitacolo per le vetture. Noi non abbiamo fatto altro che trasportare la tecnologia messa a punto per la purificazione dell'aria all'interno delle vetture in ambiente domestico. È chiaro che in questo caso abbiamo cercato di ottimizzare al massimo il rendimento del filtro, quindi abbiamo fatto un filtro di grandissime dimensioni, abbiamo studiato una ventola particolarmente silenziosa e che di fatto faccia comunque una discreta portata d'aria rapportata al volume di una stanza, e abbiamo tenuto conto di tutta una serie di aspetti, diciamo, più adatti all'uso domestico piuttosto che ufficio, che differenziano appunto la casa dall'automobile, chiaramente. Però l'efficienza elevatissima è data dal materiale filtrante, quindi chiaramente in realtà è un purificatore d'aria, è uno strumento che è in grado di togliere tutta una serie di particolati che sono purtroppo nocivi dall'aria che respiriamo all'interno delle nostre case. Di che materiale sono fatti questi filtri? I filtri sono fatti in base poliestere, si usa questo tipo di materiale di origine plastica per il semplice motivo che non può permettere l'insorgere di ceppi batterici, cioè se usassimo la carta piuttosto che altri materiali potrebbero esserci dei problemi in tal senso. Quindi è chiaro che loro filtrano delle polveri che noi normalmente altrimenti abbiamo depositati nelle nostre case, cioè non è che filtriamo qualcosa che noi non conosciamo. Che se ne fa del filtro una volta che è ormai impregnato? Il filtro si butta nel normale sacchetto nero, cioè della raccolta indifferenziata, non è assolutamente un rifiuto speciale per il semplice motivo che alla fine c'è le stesse cose che noi tratteniamo in uno straccio per la polvere piuttosto che uno straccio ai pavimenti e così. E la teniamo accesa tutto il giorno, a più velocità ci va a costare molto con questa bolletta elettrica, insomma. No, è una cosa a cui siamo stati molto attenti. Ci sono degli elettrodomestici di qualche anno fa che avevano delle spie, la spia tipica rossa che si vedeva così, che consuma ben di più, quindi in realtà hanno un consumo veramente molto molto basso. Vi rimandiamo al sito www.filterdesign.it per vedere le analisi dell'aria effettuate negli ambienti in cui è in funzione la filtrolampada ed anche un video dimostrativo di appunto come funziona. Terza novità che vi presentiamo, ed è l'ultima, il gel fotovoltaico. Che cos'è? Un gel come quello che si mette sui capelli, che si spalma però sulle finestre, nelle intercapedini dei doppi vetri o anche viene semplicemente colato sulla lastra. L'applicazione di questa sostanza, dicono gli inventori, permette ad ogni superficie vetrata di diventare un generatore di energia elettrica. Giuseppe Vetere è il presidente di Esco Energy, che appunto ha inventato e commercializza questo gel fotovoltaico. Abbiamo preso silice amorfo cristallino, pian pianino l'abbiamo reso trasparente fino a quanto abbiamo portato alla creazione questo gel fotovoltaico che oggi in effetti è tranquillamente trasparente. Siamo riusciti a portare avanti il progetto di far diventare il vetro un vetro fotovoltaico, quindi farlo diventare non più che utilizza solo a far entrare il sole dentro casa, ma oltre a far entrare il sole dentro casa diventa anche un pannello che produce l'energia elettrica e la cede alla casa. Quindi io praticamente attraverso i miei vetri posso ricevere l'energia necessaria per la mia casa, almeno per la mia casa, insomma, forse anche di più della mia casa. Allora, dipende dalle metrature di casa e dipende anche dal sistema, perché se utilizziamo soltanto l'intercapedine del doppio vetro, allora abbiamo soltanto un valore che la produzione di energia elettrica può soddisfare il nostro fabbisogno energetico. Se invece utilizziamo il prodotto dove abbiamo l'utilizzo del vetro che viene già trattato con il già viene messo nato sul vetro e poi fatto un certo trattamento e quindi può utilizzare già il vetro indirettamente nell'altro vetro, allora abbiamo che la produzione, anziché avere 100 watt a metro quadrato, ne avremo di produzione di 300 watt a metro quadrato, e sicuramente con quella che andiamo a produrre abbiamo la possibilità anche di poter dare l'esubero in rete e quindi poter soddisfare anche un pochettino in percentuale anche l'utente di casa a fianco, se non ha messo il vetro fotovoltaico. E quindi è una soluzione valida anche per chi non può avere mettere dei pannelli, un condominio per esempio, dove queste cose sono sempre molto difficili da fare. Ma questo è nato proprio, il fatto del vetro è nato proprio dall'utilizzo in condominio, dall'utilizzo di ognuno nella propria casa. Negli anni questo gel ha necessità di manutenzione, diciamo così? No, il gel una volta messo non ha motivo di essere manutenzionato, quindi non è normale, ha una durata, almeno scientificamente a quello che ci hanno fatto, abbiamo verificato ed attestato, è un prodotto che bene o male può funzionare 25-30 anni per bene, senza avere problemi. Non ha problema di inquinamento, per cui a contatto con l'acqua diventa liquido, non ha problemi tossici e quindi nell'ambiente si degrada con facilità senza portare problemi, arrecare problemi fra 20 anni o 30 anni. Bene, ci fermiamo qui per questa puntata di Respiro. La linea ora passa al Riposo del Guerriero con Stefano Gallarini. L'appuntamento con un'altra puntata per la prossima settimana alla stessa ora. Però, se conoscete i prodotti di cui abbiamo parlato o volete segnalarne altri, ricordatevi il nostro indirizzo internet è respiro@radio24.it. Buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini.